timore più sviluppato di voi. Tante volte si sente dire che Giovanni, tra i quattro evangelisti, è quello più individualista, nel senso che per Giovanni la comunità non sarebbe mai così importante come negli altri tre evangelisti. Ciò che è fondamentale, si dice certe volte per Giovanni, è l'unione personale del credente con Gesù. L'importante è diventare discepoli personali di Cristo. A Giovanni quindi interesserebbe molto l'unione dell'uomo singolo con Gesù e interesserebbe di meno l'unione dei credenti tra di loro. E come conferma si porta anche una delle immagini più celebri del quarto Vangelo. Gesù che si presenta come la vite, i credenti come i tracci. L'importante non è che i tracci siano uniti tra di loro, l'importante è che i tracci siano innestati, siano inseriti nella vite. Ciò che conta quindi è unicamente il rapporto credente in Cristo, a differenza di Paolo, che usa l'altra immagine, quella del corpo. Ora, è vero che Giovanni insiste nel dire che la salvezza viene dalla missione personale dell'uomo a Gesù. Però è altrettanto vero che Giovanni sottolinea molto la necessità, non solo l'importanza, la necessità che i credenti siano uniti tra di loro. Già nell'incontro precedente, commentando qualche tratto della preghiera di Gesù dopo l'ultima cena, la preghiera dell'ora, avevamo visto come il tema di questa preghiera è che i credenti riescano a vedere la croce come momento che manifesta l'importanza e il peso del Padre e del Figlio nella storia umana. La preghiera di Gesù ha lo scopo di chiedere che gli uomini comprendano come la Trinità è il dialogo, è relazione, è famiglia, e la Chiesa ha come compito fondamentale diventare manifestazione di questo Dio che è chiaro. L'unità della Chiesa è chiesta non soltanto così per motivi semplicemente utilitaristici, perché le cose vadano un po' meglio, ma perché la Chiesa diventi manifestazione concreta di quell'unità che esiste tra il Padre e il Figlio, unità talmente personale da essere lo Spirito Santo. Ora, oltre a questa preghiera, altri passi del Vangelo di Giovanni ci testimoniano il suo interesse per la dimensione comunitaria e ecclesiale dei credenti. Questa dimensione emerge, e lo vedremo tra poco, specialmente nel racconto della Passione di Gesù, perché è dalla croce di Cristo che stabilisce la Chiesa come comunità di credenti, comunità divinizzata dallo Spirito. Ma già nel corso del suo Vangelo Giovanni sottolinea molto questa necessità che gli uomini vengano riuniti attorno a lui. Un primo passo che parla di questa unità lo abbiamo sentito l'altro ieri nella liturgia domenicale. Avevamo letto l'incontro di Gesù con la Samaritana e il brano terminava dicendo che questa Samaritana è rientrata in città dicendo: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia forse il Messia. Il commento che fa la gente è espresso con questo parola. Uscirono allora dalla città e andavano da lui. Poi, qualche riga sotto, molti samaritani capitani di quella città credettero in lui per le parole che diceva la donna. E i samaritani giunsero da lui. Per due volte si sottolinea che i samaritani vengono da Gesù, si avvicinano a lui, ergonto prosaltor, venivano verso di lui e testimoniano la loro fede, sappiamo che costui è il Salvatore del mondo. E al centro c'era il colloquio di Gesù con i discepoli, il colloquio nel quale Gesù commenta questa venuta dei samaritani. Come commenta Gesù questa venuta? Anzitutto dicendo che egli sta in quel momento lì mangiando un cibo speciale. Il dialogo con la donna, che per di più è eretica. La venuta dei samaritani costituisce per Gesù un nutrimento. Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. L'incontro con quella samaritana e la venuta dei discepoli, dei samaritani, scusate, coincide con un progetto di Dio che Gesù sta accogliendo in pieno. Potremmo dire sta masticando. E poi Gesù invita a leggere un po' in profondità. Non dite voi, ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mia. Ecco, io vi dico, levate i vostri occhi e guardate i campi che già pioveggiano per la mia. È un detto abbastanza strano. Non occorre essere figli di contadini per rendersi conto che il dramma non può venire inteso a livello normale e naturale. Perché se tra 4 mesi viene la cultura, c'è ben poco da parlare in Italia. 4 mesi prima non conteggia proprio niente. Basta che parliamo adesso i campi e tra 4 mesi la cultura. Non vi ho detto assolutamente niente. Allora cosa intendi dire Gesù? Levate i vostri occhi e guardate i campi che già fioriscono. Levate i vostri occhi e guardate i campi. Abramo, alza gli occhi e conta le stelle del cielo. Quando Abramo è senza figli. Alzare gli occhi e guardare quindi è una frase che contiene un avvertimento profetico. Oppure, altrove nel libro di Isaia specialmente, questa frase preannuncia la riunificazione dei dispersi o è l'invito a contemplare la grandezza di Dio. Isaia 40, versetto 26. Levate in alto i vostri occhi e guardate chi ha creato quegli astri. Oppure Isaia 49, versetto 18. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si adunano, vengono da te. Gesù quindi in quei samaritani che stanno venendo, probabilmente si è trattato di un episodio molto semplice, molto povero per quanto riguarda il numero. Però in quella visita dei samaritani che credono in lui, Gesù vede ormai il segno profetico. Alzate gli occhi perché sono l'inizio di una dietitura abbondante. Gesù vede l'inizio del raduno dei popoli predetto dai profeti. È l'inizio di una messe abbondante. E sappiamo quanto l'immagine della messe nella Bibbia sia eloquente. È l'immagine dei popoli che vengono chiamati a entrare nel granaio di Dio. Vengono chiamati a entrare nella famiglia di Dio. Gesù quindi, parlando con quella samaritana e accogliendo i samaritani che gli vengono incontro, sta compiendo il tempo della vivificazione. Presso il porto di Giacobbe ha compiuto questo inizio della missione, ma poi la missione passa alla Chiesa e chi niente riceve il sacramento e raccoglie tutto per la vita eterna, perché ne gode insieme chi semina e chi niente. Qui infatti si realizza il detto, uno semina e uno niente. Gesù sta raccogliendo, però l'autentico seminatore è stato il Padre, che ha attirato questa donna, che ha attirato i samaritani. A sua volta Gesù semina e raccoglierà i suoi discepoli. A loro volta i discepoli semineranno e raccoglieranno generazioni successive. Gesù qui abbraccia con l'unico sguardo tutta la missione sua e della Chiesa, e consiste in un seminare e nello stesso tempo raccogliere, lavoro missionario che si protrae di generazione in generazione. E Giovanni insiste sul tema della gioia, perché ne goda insieme chi semina e chi niente. E vuole togliere anche ogni ansia, ogni paura e nello stesso tempo ogni superbia. Ogni generazione subentra in questo lavoro di raccolta e nello stesso tempo di sé. Nessuna generazione sta né all'inizio né alla fine, perché all'inizio e alla fine c'è sempre solo il Padre. E la messe è sempre soltanto sua, ed è lui che chiama alcuni a raccogliere questa messe e a consegnarla. Questo è il primo tratto in cui Giovanni parla del tema dell'unità. Un secondo accenno al tema dell'unità è presente nel capitolo decimo, quando Giovanni tiene il discorso del buon pastore. Al centro di questo discorso, nel versetto 16, troviamo questa affermazione: ho altre pecore che non sono di questo ordine, anche queste io devo condurre, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Gesù si è appena presentato come il pastore vero, il pastore autentico, il pastore contrapposto al mercenario. Il mercenario non è affezionato alle pecore perché non sono sue e di conseguenza le abbandona, e perciò quando viene in gruppo le rapisce e le disperde. L'opera del pastore è esattamente opposta: quella di tenere unito il gregge, prendersi cura delle pecore perché nessuna di esse perisca. Chi è raffigurato nell'immagine delle pecore? All'inizio del discorso, le pecore raffigurano il popolo di Dio. Gesù è venuto per portarlo fuori da un ambiente chiuso, il mondo di Dio, il recinto del tempio con tutte le sue istituzioni. Gesù è la porta che introduce questo gregge, questo popolo di Dio, in una dimensione nuova. Però subito Gesù aggiunge: ho altre pecore. Non solo è venuto per riunire i giudei, ma è venuto anche per altre persone che stanno fuori del recinto del giudaismo, fuori del recinto del tempio. Anche queste hanno bisogno che qualcuno le guidi verso un esodo pieno. Gesù quindi sta parlando di una nuova comunità che nasce in sostituzione di quella giudaica, e dice: anche queste pecore pagando, io devo condurre. Cosa fa Gesù per condurre questo tempo? Anzitutto c'è il verbo devo che ci mette sulla pelle, perché il verbo devo i Vangeli normalmente lo connettono con la passione di Gesù. Ne devo condurre. C'è una volontà ormai decisa alla quale io mi adeguo. Condurre queste pecore, in che modo? Per cercare il modo non occorre andare troppo avanti. Basta leggere la vita immediatamente prima e la vita immediatamente dopo. La vita immediatamente prima, offro la mia vita per le pecore. La vita successiva, io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Io la offro da me stesso, perché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre. Condurre per Gesù quindi significa morire per questo tempo. Già qui il tema dell'unità diventa più concreto. Prima nel brano dei Samaritani era ancora un inizio molto generico, una profezia ancora lasciata vaga nella sua realizzazione concreta. Qui ormai più concretamente emerge per riunire insieme e giudei e pagani, in modo che formino un unico regge, riunirli insieme è tutto e effetto della sua morte, del dono cioè della sua vita. Diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Questo diventeranno il futuro. Significa profezia, ma è implicito, mi pare, anche un accento coerente. Possono provare tutti, ma non riusciranno a mandare a monte questo piano. Diventeranno tutti uniti intorno a quest'unico pastore proprio perché mi riconduce donando la sua vita. Ci saranno forze ostili, e all'interno di queste pecore e al di fuori, ma queste forze non riusciranno a contrastare in modo definitivo l'attrattiva efficace che esercita Gesù pastore donando la sua vita. Diventeranno un solo gregge. La traduzione latina dice unum ovile et unus pastor. Ovile, qualcosa di chiuso, di statico. Il greco è più esplicito, diventeranno un gregge, non un recinto chiuso, ma una realtà in movimento, mia poi di me, un gregge. Quindi il seu vive fa quasi pensare a una realtà più statica, più fissa, più istituzionale. Il testo autentico greco parla di gregge. Diventeranno un unico popolo in cammino, preceduto dalla vita di quest'unico pastore che è Gesù. Quindi l'umanità viene già presentata da Gesù qui come un unico gregge, un'unica comunità costituita di uomini che hanno provenienze diverse, giudaiche e pagane, delle quali però egli è l'unico pastore e la via sulla quale le conduce è la via che egli stesso percorre, quella che lo porta al Padre. Unica condizione di questa, ascolteranno la mia voce, cioè la cooperazione fatta di obbedienza. E anche qui questo ascolteranno la mia voce è un futuro di profezia, ma nello stesso tempo di incoraggiamento. le varie voci contrarie, i vari allettamenti, le varie sirene delle classici, non riusciranno a sopportare la mia voce. Ascolteranno la mia voce, la voce che scende dalla mia croce, la voce che parla del mio dono, la voce che parla del mio compito di riunirmi e condurmi al Padre. Per chi non ascolta questa voce, Giovanni dice qual è la situazione. Sorse di nuovo dissenso tra i giudei, dissenso è il termine classico, schisma, frattura, per queste parole. Molti dicevano ha un demonio ed è fuori di sé. Altri dicevano queste parole non sono di un'immunità. Chi lo ascolta costituisce il suo gregge. Chi non lo ascolta e lo rifiuta si cambia fuori. Diventa figlio scismatico. Diventa persona che proclama, pronuncia sulla propria esistenza uno scisma, una rottura, una spaccatura. Terzo passo in cui si parla di questa unità, opera di Cristo. Gesù ha risuscitato Lazzaro. Molti giudei rimangono colpiti da questo miracolo e lo seguono. I capi cominciano a intimorirsi, hanno una paura politica e si riuniscono, le parte di ironia di Giovanni, si riuniscono a per eliminare Gesù. E uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote di quell'anno, disse loro: voi non capite nulla. E non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera. E Giovanni con ironia sottilissima commenta. Questo però non lo disse di suo. Ma essendo sommo sacerdote, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. E non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Vi è qui una profonda ironia. Gli uomini si riuniscono, ma perché Gesù non lo fa più. E quindi fanno un progetto per eliminarlo. E di qui l'ironia con la quale Dio continuamente guida la storia. Chi fa tradimento è il primo che cade in essi, dice il salmista. Chi scava buche è il primo che in essi inciampa. Dio guida la storia proprio servendosi della scuola perversa degli uomini. E dal modo smentisce le loro sicurezze e li confonde. E si serve per i propri figli, utilizzando i progetti che essi nella loro stoltezza hanno compiuto. Caifa, che era sommo sacerdote di quell'anno, il sommo sacerdote non durava in carica ma dicendo di quell'anno, Giovanni sottolinea che si tratta dell'anno memorabile e culminante di tutta la storia del mondo. Caifa comincia con un accento sprezzante. Voi non capite nulla. E lui che fa qualcosa. E poi espone il suo principio. Considerate il principio sul quale occorre riflettere. È meglio che muoia per il popolo e per chi non perisca la nazione. E così diventa strumento di Dio per proclamare il significato della morte di Gesù. Da parte degli uomini, un processo. stesso è tutto santo il quale lo voglio eliminare. Da parte di Dio diventa l'aumento in cui gli uomini, dalla loro dispersione, cominciano a diventare figli di Dio. Cominciano a diventare popolo nuovo. Diventeranno un solo gregge, un solo pastore, aveva detto. Qui viene ulteriormente specificato. Riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. E durante il racconto della passione, quando Giovanni nomina nuovamente Tabita, fa riferimento a questa profezia. Tabita poi era quello che aveva consigliato ai giudei, è meglio che un uomo solo muoia per il popolo. E Giovanni fa questo commento all'inizio della passione, quando i discepoli tutti lo hanno abbandonato, quando esternamente sembra che Gesù sia lì a morire nella più completa solitudine, quando sembra quindi che la sua ora culminante sia l'ora dello spacego. Giovanni, inserendo di nuovo un richiamo a questa profezia, dice, benché esternamente non senti così, con questo processo comincia l'inizio di una umanità nuova, Gesù diventa punto di convergenza, punto di coesione. C'è ancora un altro passo prima di leggere direttamente qualche parte della passione. È nel capitolo 12, versetti 31 e 32. Alcuni greci hanno espresso il desiderio di venire e vedere Gesù. Alcuni pagani hanno sentito parlare di Gesù e vogliono conoscerlo meglio. Ebbene, questo fatto dà a Gesù l'occasione per compiere una riflessione profonda. Ed è l'ultima riflessione che compie durante la sua vita pubblica. I farisei fanno questa tremenda constatazione. Vedete che non concludete nulla. Ecco, il mondo intero vi è andato dietro. I greci vengono e confermano questo cammino del mondo verso Gesù. Vengono per vederlo, cioè per conoscerlo e quindi per credere in lui. Sono il segno di una umanità che sta mettendosi in cammino verso di lui. E a questi pagani che lo vogliono conoscere meglio, che lo vogliono vedere meglio, Gesù che spiegazione dà? Come si presenta? Quale risposta dà al loro desiderio in modo che si trasformi in fede? Gesù parla della sua ora. È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. L'ora della glorificazione, l'ora cioè in cui sta per diventare visibile il peso di importanza sua nella storia dell'umanità. Ma subito Gesù spiega con parole non del tutto facili da accettare. In verità dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Ai pagani che lo vogliono conoscere, Gesù si presenta con l'immagine del chicco di grano che intanto vuol preservare se stesso, non diventerà mai sfida nuova. Quando invece dona la sua vita, può portare molto frutto. Gesù invita i greci, cioè, a venire da lui, considerando però l'importanza del mistero della croce. Guardandola e accettandola, comprendono chi è Gesù, trovano salvezza e capiscono qual è il proprio ruolo. se il chicco di grano cade, muore, produce molto frutto. Penso che legittimo chiedersi in cosa consiste questo frutto, abbondante. E Giovanni risponde, versetto 31 e 32, ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Ecco qual è il punto, che coincide con la morte di Gesù. Il tutto è espresso con due verbi radicalmente opposti. Il principe di questo mondo, gettato via, spodestato, buttato fuori, tutti attirati a me. Questo è il punto della morte di Cristo. Questo è il culmine della storia. La morte di Gesù segna la sconfitta del principe di questo mondo, cioè di tutta quella mentalità, quella logica, quelle persone imposta dalla loro vita sull'odio e sulla menzogna. Ora il principe di questo mondo è gettato fuori. Il mondo basato su questa potenza di violenza, di odio, di menzogna, viene spodestato e dichiarato impotente. E una volta che io sarò innalzato, glorificato, elevato sulla croce, attirerò tutti a me. Gesù è esaltato in modo tale che gli uomini, dalla schiavitù, dalla paura dell'odio, passino alla signoria di amore. Passino quindi a una nuova legalità. Gesù in croce dà inizio a una umanità nuova riunita intorno a lui. La morte quindi per Gesù non è segno del suo annientamento, è semplicemente il momento in cui inizia a edificare una umanità diversa. Geremia 31, versetti da 2 in poi, diceva così: Dio amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà. Ti edificherò di nuovo, e tu sarai riedificata, vergine di Israele. Di nuovo ti ornerai dei tuoi tamburi e uscirai dalla danza dei cristalli. E qualche riga sotto, ecco, mi riconduco dal paese del settentrione, mi raduno dall'estremità della terra, essi erano partiti nel campo, io mi riporterò tra le consolazioni, li condurrò a fiumi di acqua, per una strada diritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele. Efraim è il mio primogenito. La morte di Gesù, quindi, è la testimonianza suprema di questa misericordia di Dio, Dio amato e amore eterno. Di questa sua pietà perenne, ti conservo ancora pietà, e distruggendo i valori negativi, distruggendo il potere satanico, che ancora c'è in questo mondo, nascerà una umanità nuova, un popolo nuovo, un popolo liberato, un popolo capace di vivere in alleanza con Dio. Anche qui una sola soluzione ed è la solità, che gli uomini ascoltino la sua voce, è detto nei versetti 35 e 36, mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. L'unica condizione è credere. E veniamo finalmente a ciò che Giovanni dice nel racconto vero e proprio della passione. L'unità dei credenti è il tema centrale che viene sviluppato quando Giovanni racconta la crocifissione, la morte e la sepoltura di Gesù. Nei brani precedenti il tema era quello di Gesù Re. Sulla croce Gesù dà inizio a una comunità nuova. Anzitutto Giovanni sottolinea, a differenza degli altri tre evangelisti, che sulla croce Pilato colloca un titolo scritto in tre lingue: ebraico, lingua del popolo; greco, lingua dei culti; latino, lingua ufficiale, in modo che tutti possono leggere il significato del crocifisso. E ciò che Pilato ha scritto rimane perennemente scritto. Occorre quindi leggere ciò che capita sul Calvario, e Giovanni dice: non ritenerti incapace, perché quanto lì è scritto in una lingua che ognuno può leggere, quella semplice, quella dei corti, quella ufficiale. E quali sono gli avvenimenti che Giovanni descrive? Il primo, la tunica di Gesù che non viene scissa. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a tutta. Così la vettiva la scrittura si sono divise tra loro i tedeschi, e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. A questo episodio Matteo dedica 6 parole, Marco 12, Luca 7, Giovanni 69 parole. Inizia: i soldati, quando ebbero crocifisso, presero le sue vesti, e termina: i soldati fecero proprio così. Quindi un'azione molto importante. Per il più al centro si sottolinea: così si adempiva la scrittura. È un fatto importante che adempie le scritture. La tunica non la divide. Qual è il simbolo? Per la mentalità biblica, la divisione delle vesti aveva un significato notevole. Cito soltanto un passo tolto dal primo libro di Re, quando muore Salomone. Il suo regno viene diviso tra il figlio Roboamo al sud e Geroboamo al nord. Ora questa divisione è preceduta da un certo profeta. Il profeta Abia afferrò il mantello che indossava e lo lacerò in 12 pezzi. Disse a Geroboamo: prendine 10 pezzi, poiché dice il Signore Dio di Israele: ecco, lacererò il regno dalla mano di Salomone e gli darò a te 10 tribù. È un simbolismo antico di Battista. Un vestito lacerato è simbolo di un popolo di Dio. E anche qui, per indicare la parola lacerare, Giovanni opera il solito termine schizzo, la figlia fascista. Non fu lacerata la tunica. I padri in questo fatto hanno sempre visto un simbolo dell'unità dei credenti, dono frutto della morte di Cristo. Considerano un po' testimonianza di Cristo, discendi e divini, ecclesia di Cristo, commenta San Cipriano. non può indossare il vestito di Cristo colui che rompe e divide la Chiesa di Cristo. Santo Agostino commenta in una maniera simile. Quanto alla Trinità tirando a sorte, essa significa l'unità di tutte le parti saldate insieme dal vincolo della carità. La tunica è senza cuciture, affinché non possa essere squisita e divisa, ed essa tutta intera viene data ad un solo soldato, perché essa riunisce tutti gli uomini in uno solo. In questo episodio, quindi, sempre la Chiesa ha visto un'immagine della sua unità che sta per nascere sul Calvario. Subito dopo c'è un altro episodio, quello della madre e del discepolo. Gesù vede sua madre, dice: donna, ecco tuo figlio, e al discepolo dice: ecco la tua madre, e da quel momento il discepolo la accolse come propria. Il brano è molto importante perché al termine di esso Giovanni stesso fa questo commento: Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, è il brano che dà compimento a tutta la missione di Gesù. Il brano inoltre è importante anche dal punto di vista linguistico greco. I soldati fecero questo, in greco è poi me, lui stratiota in tanta e poi esatto, poi me. E l'episodio delle donne è introdotto con il te, e il te che sarà te farà tosta al posto di Gesù. Beh, i tuoi brani sono strettissimamente, indissolubilmente congiunti, cioè, per non fare troppo l'interazione in greco, l'episodio della donna e del discepolo per Giovanni è un commento alla pubblica amicizia, è semplicemente una spiegazione, un'ulteriore chiarificazione, un compimento di ciò che la tunica non scissa prefigurava. La madre non è chiamata con il suo nome, è chiamata donna. Il discepolo non è chiamato con il suo nome, è chiamato il discepolo che Gesù amava. Quindi non vengono chiamati con il loro nome, ma piuttosto con il loro ruolo, con la loro vocazione, con la loro funzione. Maria è la donna, quella che era già stata nominata a casa. Donna, non è ancora giunta la mia ora. Qui per la donna è giunta l'ora. E poi c'è uno schema molto chiaro di rivelazione. Gesù vide, disse, ecco, uno schema frequente in Giovanni. Il Battista vede Gesù, dice, ecco l'Agnello di Dio. Viene rivelato il ruolo di questa donna e il ruolo di questo discepolo. La donna è chiamata madre, il discepolo è l'uomo di fede. È il testimone del mistero della croce. Sono due persone reali, ma due persone anche che rappresentano qualcosa. Dal punto di vista storico concreto, Gesù compie l'ultimo atto di pietà nei confronti della madre e deve procurare un sostegno perché è vedova. Le deve procurare quello che l'Antico Testamento chiama il Goel, il parente che si interessa dei diritti di questa donna. Ma c'è qualcosa anche di molto più profondo. Maria è la donna. La donna della quale continuamente parlavano i profeti. la donna figlia di Sion, che dovrà partorire un popolo nuovo. La donna che già da Adamo era stata chiamata madre dei viventi. La donna che sta vivendo quella che Gesù nell'ultima cena aveva chiamato Lola, la donna quando partorisce nella tristezza, ma poi, quando ha dato alla luce un figlio, è piena di gioia perché la vita nuova è sforzata. Maria qui è la madre che genera un nuovo popolo rappresentato da Vincenzo. Il simbolismo è molto chiaro. La madre Chiesa è Maria, il discepolo rappresenta tutti i figli della Chiesa. Ecco che quella tunica non scissa comincia a diventare una realtà più concreta, più personale, più incarnata. Il discepolo è la figura del fedele nella Chiesa. Maria diventa la madre di tutti i credenti. La Chiesa è simbolizzata in Maria. Il discepolo diventa il fratello di Gesù, non per nulla appena risolto il caro la Maddalena, va a dire ai miei fratelli. Sul Calvario Gesù come ultima opera compie questo. La costituzione di una comunità che prolunga la sua attività, lo rende presente sulla terra, e lì sul Calvario questa comunità è visibilmente rappresentata da Maria, la Chiesa Madre e dal discepolo. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Da quel momento è una traduzione che non mi piace per niente. Da quell'ora, dice il Greco, da quell'ora solenne, dall'ora di Gesù, il discepolo la prese nella sua casa. Il Greco è elaben eistaita, la accolse come propria. La stessa identica frase Gesù aveva operata nell'ultima cena, nei discorsi al capitolo 16, versetto 32. Viene l'ora in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio, ciascuno è istantia, ciascuno nel suo privato. Sul Calvario non c'è la dispersione del privato, sul Calvario si accolgono a vicenda, come dono uno per l'altro. Sul Calvario quindi nasce una comunità nuova, una comunità fondata dal discepolo. E all'inizio del Vangelo di Giovanni il discepolo è colui che accoglie il Verbo, a coloro che lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Però caratteristica del discepolo è anche accogliere la madre, la Chiesa. La accolse e sta figlia, come realtà propria, come dono proprio. Si adempiono quindi qui per Giovanni le profezie di Gerusalemme madre che unisce il disperso. Una la capoletta prima di Isaia 49. Ma poi c'è anche il Salmo 60, altro lo sguardo di la gloria del Signore si sta per rivelare. È il momento della glorificazione di Cristo e del Padre. E in questo momento della glorificazione la Chiesa sta per nascere come comunità unita. C'è l'episodio di Cristo, Gesù domanda da voi. E tutte le volte che nel Vangelo di Giovanni Gesù domanda qualcosa, in realtà domanda per dare. Ha previsto la sorpresa del fratello di Domenica, alla sorrentana, a Davide, a Davide. La domanda è fatta perché il bene nasce a Mosè. A ai discepoli, quando Gesù è risorto sulle rive del lago, domanda da mangiare, ma in realtà è lui che prepara il cibo sulle rive del lago e del Galilea. Anche qui Gesù ha sete, è una sete reale, concreta, fisiologica, non c'è niente. Ma Giovanni vede anche un significato profondo, il desiderio che in questa comunità nasca una sete. Il desiderio che questa comunità si apra a ricevere una realtà che la distinta da un'unica. Qual è questa realtà? In altro campo, la luce di italiano in maniera spiccia, spiro. In greco è paretoken ton pneuma. E nessun testo della letteratura greca fino a Giovanni per dire che il cuore adopera l'espressione con signore spirito. A questa comunità Gesù si china, si protende verso di lei, volontariamente le dona lo spirito. Sul Calvario, alla Chiesa, all'inizio simboleggiata nella tunica, poi realmente presente in Maria e nel discepolo, Gesù consegna lo Spirito perché ora che è morto, egli produce molto tutto. Il tutto è lo Spirito che anima e vivifica una nuova comunità. E questo fatto è ulteriormente commentato. I nemici di Gesù vorrebbero rompergli le gambe e togliergli il petto dalla croce. Non comandano su di lui neanche dato morto. Le gambe non gli vengono spezzate, invece vengono compiuti due altri gesti. Gli viene aperto il costato. Ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, chi ha visto è partecipe perfetto, colui che ha visto e continua a vedere. Occorre continuare a vedere il simbolo di questo costato colpito e di questo sangue e acqua di sola. Qual è il simbolo? Molto profondo. Il costato aperto è simbolo di Gesù amico pasquale, non di cuore rotte le gambe, perché come agnello pasquale non di cuore rispettato posso attivo. Gesù è l'autentico agnello pasquale che permette la riunione del nuovo popolo, permette che il nuovo popolo non venga sterminato dalla morte. E sgorga sangue e acqua. Cosa significa questo sgorgare sangue e acqua? Giovanni commenta, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. È un tratto del profeta Zaccaria. Zaccaria parla di un inviato di Dio, rifiutato, calpestato e eliminato. E quando viene eliminato, volgeranno lo sguardo su di lui, piangeranno come su di un progetto, e in quel momento dal tempio scorrerà un'acqua nuova. Dalla morte di Cristo, simboleggiata nel sangue, deriva per la Chiesa l'acqua. L'acqua che noi forse abbiamo troppo fretta di concretizzare subito nel suo significato, ma il significato dell'acqua è ricissimo, è lo Spirito Santo, chi ha sete venga a me viva, scaturiranno dal suo seno più di acqua viva, diceva Cristo parlando dello Spirito che avrebbe dato dopo la sua purificazione, che va in certo, è simbolo dello Spirito, è simbolo di tutti i sacramenti, Marta, è simbolo della vita, è simbolo della grazia. In altre parole, il Cristo morto in croce rimane efficacemente presente per chi continua a guardare. Per chi volge lo sguardo verso di lui, egli è efficacemente presente nello Spirito e nei sacramenti, in modo che questa comunità, che lì è appena nata, possa crescere e svilupparsi. E si sviluppa subito. Giuseppe d'Arimatea, primo di partita, Nicodemo che era andato da Gesù di notte, il compiuto pieno di paura, da quest'acqua viene unificato. E si riunisce a Maria, a Giovanni, e accoglie il corpo di Gesù, facendolo scendere dalla croce. Nasce qui sul Calvario una nuova comunità. L'ultimo brano molto bello, appunto, che sto oggi passando di qui, è l'episodio di Giovanni XXI, la pesca miracolosa dopo la risurrezione. La Chiesa vive un momento di stanchezza e di spavamento. I discepoli sono disorientati. Pietro li riunifica insieme dicendo andiamo a pescare. È il primo servizio di Pietro. Unire gli altri per lavorare, per fare qualcosa. Senza Gesù lavorano inutilmente tutta la notte. Quando Gesù è presente, la rete è piena di 153 grossi pesci, e la rete non si rompe, e Pietro è incaricato di tirarla a terra. La rete è simbolo della Chiesa. 153 pesci, non mi dilungo sul numero, indica la totalità del genere umano. Con la parola di Cristo, a chi spetta il compito di riunire intorno a lui? Speciale questo compito spetta alla Chiesa e a coloro che nella Chiesa hanno la responsabilità. Non è Gesù in persona che dice un uomo, è Pietro che getta la rete, è Pietro che tira la rete, ma notate bene, non la tira verso di sé, ma la tira verso terra, su quella spiaggia dove sta Gesù. Compito quindi di chi ha una responsabilità in modo speciale di Pietro. È questo servizio all'unità del genere umano per portarlo a Cristo. Certo, Cristo si può servire anche di altre realtà, l'amore, lo spirito, i sacramenti. Ma alla fine del suo Vangelo Giovanni ci tiene a sottolineare che questo compito di riunificazione, questo fa diventare l'umanità un gregge, guidato da un unico pastore, questo compito, questo servizio, questa responsabilità in realtà spetta a Chiesa. E quando Giovanni scrive il brano, dice molto importante. Segno che se è morto il buon Pietro, non è morto il cuore, non è morto l'ufficio, non è morto l'incarico, quella presenza, quel servizio è indispensabile da Chiesa. Però a fatto che sia un servizio basato sul lavoro. Mi sei amico più di tutti, e guarda che questa amicizia ti porterà a stendere le mani dove tu non potresti. Compito quindi della Chiesa e dei suoi responsabili è condurre gli uomini a Cristo, far sì che egli veramente possa attirare gli uomini a sé. Servizio all'unità. Servizio perché la morte di Cristo possa diventare veramente una morte che vive. Insieme i uomini. Questa è un po' la dimensione del grande del Vangelo secondo Giovanni, sono stato più duro del solito, chiedo scusa, nelle volte prossime mi verrà specificato specificare questo tema, come l'hanno inteso, mi ha aiutato, ci parlo della chiesa.